allora come te sbagli? Sempre sintonizzato sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La meglio che c'è stata, cioè mi veniva da dire, la radio con le pischelle più belle di Roma, come dice lo spottino. Comunque l'unica che non si via libera da più di 30 anni. Sono 36, regà, 36, eh. Senza padroni, senza partiti, senza pubblicità. E come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues in Tallaria. Un saluto a tutte e a tutti, una nuova puntata di Attica Blues, faremo un po' di chiacchiere in libertà e tanta buona musica. Era da un paio di settimane che è uscita fuori la notizia della morte di un ex Black Panther che era appena uscito dal carcere dopo 40 anni di isolamento, e volevamo dedicargli un po' del nostro tempo per raccontare di chi stiamo parlando, e con l'occasione ci ascoltiamo un po' di musica che risale al periodo in cui appunto si aggirava una pantera nera per gli Stati Uniti. Eh sì, la colonna sonora di questa puntata di Attica Blues sarà un CD doppio, non vorrei dire in esattezza, edito forse proprio dalle Black Panther, o comunque riferito a quello che fu il movimento Black Panther che ha comprato il Mampino in uno di quei paesi esotici dove viaggia lui, tipo la Germania, l'Austria, non ricordo. Ricordiamo pure qualche anniversario di questi ultimi giorni, no? Perché tu nei tuoi giri sui social network mi hai scoperto che insomma il 15 ottobre, quindi giusto un paio di giorni fa, si ricordava insomma l'anniversario della nascita di Fela Kuti e dell'omicidio di Thomas Sankara, e insomma due personaggi non da poco. Sì, ricordiamo sempre che siamo a ottobre, siamo all'interno del Black History Month, e tra l'altro qualche giorno fa, il 12, si celebrava la giornata, diciamo, dell'indipendenza indigena, perché si ricorda quella che fu un'invasione, insomma, poi sui siti spagnoli è venduta in vari modi, noi non celebriamo i genocidi. Comunque fatto sta che il 12 ottobre è stato istituito come giorno della resistenza indigena da vari popoli, soprattutto del Sud America, poi, perché insomma, vabbè, comunque. Quindi lo possiamo dire, quest'anno sono 521 anni di resistenza indigena. Com'era? 1400, quasi 1500. 1492 per l'esattezza. E allora cominciamo subito con uno dei brani da questo doppio CD, si intitola I'm Talking About Freedom. I can just about visualize the things that the brothers and the sisters had to cope with at the turn of the 18th century in Louisiana, Alabama, Georgia, Tennessee, Mississippi, as human beings in bondage. I can faintly hear the voice of one of those so-called masas saying, "All right, you niggers, line up over there and let's see what kind of stock I've bought." And I can hear a mother sobbing softly for a baby, for he was to go to the big house and be raised as a good nigger, and she was to be added to a coffle line of slaves headed for an auction block in New Orleans to be sold to the highest bidder. I can hear the moans and groans as they worked those hot fields to satisfy a cause that could only mean something to the slave owners themselves. Yeah, I can see them now. How they'd sit around for better things to come, but they never were delivered back to the place where they came. The pain shows in his eyes. This is the heritage of a black man that gets no credit, although we try. This is the heritage of a black man. He is a man in a land for which he'll die. Fights many wars as any one of us does. But when they passed out freedom, we was left out on the land. This is not what this country was founded on. Losing rights and justice. Treating him just like a child. This is the heritage of a black man. He is a man that gets no credit, although he tries. This is the heritage of a black man. He is a man in a land for which he'll die. Hell die. Will die. E beh, il pathos degli anni 70, musica comunque piena di contenuti oltre che appunto di vibes musicale. E rimaniamo nello stesso CD, ma andiamo a una casa un po' più leggerina. Who pay reparations on my soul? Per modo di dire. Musicalmente. Written many directions for the aid that was Panther. Pieces of silver and pieces of gold. Tell me who paid reparations on my soul. Many fine speeches. Loro sono i Last Poets. Una ciunna che si chiama Panther, Sonia così danzando, diciamo, in qualche modo traduceva chi pagherà un risarcimento per la mia anima. Tell me who paid reparations on my niente di chiedere chi pagherà un risarcimento per l'anima di Herman Wallace, 40 anni di vita rubati in un carcere della Louisiana e poi solo 3 giorni di libertà prima di morire. Sì, è uscito già malato a 70 anni. Tra l'altro il processo, se non ricordo male, è stato annullato, ritenuto nullo, quando ormai lui praticamente è morto. Ma ci sta ancora. Il processo era per l'uccisione, mi pare, di una guardia carceraria, se non ricordo male, e ci sta ancora un suo compagno accusato nello stesso processo, che sta ancora dentro, eppure lui già avrà 70 anni. Parliamo di persone entrate a 28 anni, perché 42 anni in carcere, insomma. A proposito della frase, appunto, chi pagherà un risarcimento, volevo leggere questa frase che Thomas Sankara pronunciò all'Organizzazione dell'Unità Africana, che recita più o meno così: il debito pubblico nella sua forma attuale, controllata e dominata dall'imperialismo, è una riconquista dell'Africa sapientemente organizzata, in modo che la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a delle norme che ci sono completamente estranee, in modo che ognuno di noi diventi schiavo finanziario, cioè schiavo assoluto di coloro i quali hanno avuto l'opportunità, l'intelligenza, la furbizia di investire da noi con l'obbligo di rimborso. Insomma, in questa atmosfera da anni 70, però gira che ti rigira, nel disco c'è la canzone di un signore, un amico, Earl Sixteen, che è nato in Jamaica, star, e comunque in mezzo a questa compilation che fa più, diciamo, funky, blues, soul, ci sta questa sua Malcolm X. Ovviamente non è Sixteen. Ride on. Some of us are aware. Ma la prossima sono Sixteen, eh. For us to care. Some of us feel the icy wind. Poverty flowing in the air. But those of us who simply like to socialize. Who live where hatred is enslaved. dicevamo allora che il 4 ottobre scorso è morto Herman Wallace, ex militante delle Pantere Nere, che si trovava in carcere da 40 anni in isolamento. Cioè 40 anni di isolamento, rendiamoci conto. Invece il 2 ottobre un giudice della Louisiana ha ordinato la sua liberazione dopo che si trovava in carcere fin dal 1972. Herman Wallace è stato arrestato nel 72 per una rapina ed è stato accusato dell'omicidio a coltellate di un secondino avvenuto durante una rivolta carceraria. Non avevano accusato solo lui, ma anche altri suoi due compagni, Robert King, che è stato rilasciato nel 2001, e Albert Woodfox, che invece si trova ancora dietro le sbarre, come dicevi tu prima. Tutti e tre ovviamente si sono sempre dichiarati innocenti, ma questa accusa gli è costata una condanna all'ergastolo. Sono stati rinchiusi nel carcere di Angola in Louisiana, che ha la fama di essere una delle degli stati più violenti e segregati negli Stati Uniti. Ovviamente, come si può immaginare, le prove a loro carico erano quasi inesistenti, ma il processo si è fondato soprattutto sul razzismo e la loro appartenenza al partito delle Pantere Nere. E in effetti l'appartenenza alle Black Panthers ha avuto una sua coerenza, perché anche dietro le sbarre i tre si sono organizzati offrendo supporto legale agli altri reclusi e partecipando alle proteste contro l'isolamento e le condizioni disumane che regnano nelle prigioni statunitensi. Una cosa interessante che mi sembrava il caso di ricordare per dimostrare un po' la coerenza di queste Pantere Nere in carcere negli Stati Uniti è che, appunto, leggendo gli articoli sulla notizia della morte di Herman Wallace, ho scoperto che mentre si trovava in carcere in Louisiana era diventato un jailhouse lawyers, che è insomma il modo in cui in gergo si chiamano negli Stati Uniti quei detenuti che si mettono a studiare legge per difendere i propri diritti e ottenere la libertà. Sì, perché negli Stati Uniti la differenza che da noi si vede, sai, ogni tanto nei film, chi ti difende? Mi difendo io da solo, sì. Sì, beh, forse è l'unico modo a volte per riuscire a reclamare i propri diritti, tant'è che Wallace era stato intervistato da Mumia Abu-Jamal, che ha scritto proprio un libro su questi jailhouse lawyers, che si intitola Prisoners Defending Prisoners versus the USA. I prigionieri che difendono altri prigionieri contro gli Stati Uniti d'America. Insomma, in questo libro, che è uscito nel 2009, scritto da Mumia Abu-Jamal e con una introduzione di Angela Davis, il giornalista pluripremiato e condannato a morte presenta i racconti e le riflessioni dei suoi compagni di prigionia, che si sono trasformati in avvocati e che hanno imparato a usare il sistema giudiziario per rappresentare altri detenuti. E che in alcuni casi sono riusciti anche ad ottenere la libertà per se stessi. Herman Wallace era uno di questi detenuti avvocati di cui Mumia Abu-Jamal raccoglie e racconta la storia nel suo libro. secondo Abu Jamal questo libro è la storia del diritto che è stato appreso non nelle torri d'avorio delle università ricche di miliardi di dollari, ma nelle viscere delle navi degli schiavi e nelle più umide segrete d'America. Senti, visto che l'hai nominata Angela Davis, io non mi stancherò mai di consigliarvi Autobiografia di una rivoluzionaria, un libro bellissimo, molto coinvolgente, scritto benissimo. Sonia mi ha pure regalato quello dopo che è uscito, non l'ho ancora finito di leggere. Aboliamo le prigioni. Ok. Perché Angela Davis è un'altra di queste militanti che hanno mantenuto una loro coerenza e che per tutta la vita ha lavorato, ha lottato per l'abolizione del carcere e soprattutto ha scritto anche un sacco di cose molto intelligenti e sensate su perché abbia senso e sia la cosa più giusta da fare, appunto, abolire le prigioni. Il quadernino abbinato alla scarceranda dell'anno scorso, di due anni fa forse due, un paio d'anni fa, c'era, insomma, diverse cose sue sono uscite negli anni. Comunque, in attesa che esce la scarceranda nuova, potete sempre passare qua a Via dei Volci, dove trovate i vari quadernini degli altri anni pieni di contenuti molto interessanti, di volta in volta dedicati a un argomento. Vabbè, senti, io ho nicchiato prima, avevo detto che la mettevo, e dai, vediamo se ci ho preso mo, va. Torniamo a Herman Wallace, ma parliamo sempre di carcere, perché appunto è stato in carcere 40 anni in un regime di isolamento terribile, in una cella di 3 metri per 2 con una sola ora d'aria al giorno. Alcuni mesi fa gli era stato diagnosticato un tumore al fegato e quindi si sapeva già che gli restavano probabilmente poche settimane di vita. Eppure il giudice non ha ordinato la liberazione di Herman Wallace per motivi di salute, ma semplicemente perché la sentenza di condanna nei suoi confronti dopo 40 anni si sono resi conto che era incostituzionale, perché nella giuria non c'era nemmeno una donna. Ok, insomma, Herman Wallace è stato poi liberato il 2 ottobre, ma ha avuto, come dicevamo, solo 3 giorni di libertà, perché il 4 ottobre è morto proprio per le complicazioni dovute a quel tumore al fegato che gli era stato diagnosticato pochi mesi fa. Certo, i suoi avvocati dicono che vogliono portare avanti una battaglia per evitare che altre persone, altri detenuti vengano sottoposti alle condizioni disumane in cui è stato Herman Wallace negli ultimi 40 anni. Sì, pure perché poi alla fine dei 3 incriminati per questa guardia carceraria accoltellata durante una rivolta, quindi insomma una situazione pure ben poco facile identificare dei responsabili, hanno incriminato 3 persone che guarda caso erano 3 persone del Black Panther. Uno l'hanno rilasciato nel 2001, Ballas l'hanno rilasciato 3 giorni prima che morisse, il terzo sta ancora dentro comunque. Sta ancora in carcere ed è in attesa dell'appello. Down in the grass, where can the killers be found? I wanna know how long will it be till all of my brothers see the hidden brutality. Leggendo un po' i commenti alla notizia della scarcerazione e poi subito dopo della morte di Herman Wallace, vedevo che insomma tutti sostengono che in realtà non esisteva nessuna prova che dimostrasse la sua colpevolezza nell'omicidio del secondino. E insomma, l'indagine con cui è stato accusato è stata in realtà viziata da pregiudizi razziali. E comunque non esiste nessuna prova che lo leghi al delitto, anzi le tracce di DNA che avrebbero potuto scagionare Wallace e gli altri 2 del carcere di Angola sono praticamente andate perdute, e le disposizioni sono, le deposizioni arrivate durante il processo che li accusavano sono state tutte screditate. Per cui insomma è chiaro che insomma il processo è stato ingiusto e che le pene soprattutto sono state veramente, cioè, enormi e sproporzionate, semmai potrebbe essere sensata e proporzionata una pena, insomma, diciamo che questa non lo era. Comunque diciamo che quella che fu la repressione da parte del governo americano nei confronti delle Black Panther è sempre passata per mistificazioni, falsi, processi falsi, false prove. Sì, questo non è l'unico caso, parlavamo prima di Mumia Abu Jamal. Tu ricordavi l'autobiografia di Angela Davis in cui pure lei racconta di, insomma, della sua esperienza in carcere. E quindi approfittiamo per ricordare, come facevi tu prima, che sta per uscire la nuova scarceranda. E dai! Quindi a presto su questi microfoni vi annunceremo la pubblicazione fresca di stampa e vi inviteremo a venirvela a comprare qui negli studi di Radio Onda Rossa. Vabbè, io rimango in qualche modo su questo stile musicale. Sempre all'interno di questo CD, diciamo, riguardanti le Black Panther, o comunque edito proprio dal movimento delle Black Panther, un CD doppio. Che si chiama Black and Proud. E diciamola tutta. Ed è molto bello, c'è anche un libricino molto bello, ci abbiamo già fatto una trasmissione tra l'altro ormai qualche anno fa, quindi potremo tranquillamente riciclarla. Va bene, mo la vado a ricercare. Avevi tradotto tutto il libricino, no? Sì, perché era interessante, perché a parte c'è questa bella copertina con la stella a 5 punte e la pantera nera nel mezzo, no? Verde, se non ricordo male la, sì, la copertina. Bravo. Sì, bravo. E poi c'è questo booklet che racconta tutta la storia di ogni brano, degli artisti che hanno partecipato al CD e insomma del clima che si respirava quando scrivevano queste canzoni. Va bene, questa canzone che appunto fa respirare questo clima si chiama Message from a Black Man e lui è Derek Harriott. That's no reason to hold me back. Why don't you think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it. I have wants and desires just like you, so move on aside, because I'm coming through. Oh, no matter how hard you try, you can stop me now. Ah, no matter how you can stop me now. Ooh. Yes, your skin is white. Does that make you right? Why don't you think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it, think about it. This is a message to y'all. Together we stand, divided before. Black is the color. Diceva prima Sonia di questo doppio CD Black and Proud, che contiene quasi una quarantina di tracce, perché sono un CD 18 e uno 19, ha visto la collaborazione di numerosi personaggi più o meno famosi, diciamo, chi più per i contenuti, chi in generale pure per la musica. Beh, tra i vari personaggi ah, riconoscete sta vocina? You're the man. Marvin Gaye. Detto che avevi scoperto un'altra notizia, un altro anniversario questa settimana, no? Sì, l'avevamo accennato nel diligente resoconto iniziale, il sommario. E insomma, avevamo detto che il 15 ottobre dell'87 è la data in cui è stato ucciso Thomas Sankara. Abbiamo detto che insomma Thomas Sankara su Wikipedia è ricordato come il Che Guevara africano. Eh sì, ma ci sta. Eh sì, perché aveva guidato una rivoluzione con cui nell'83 era diventato presidente dell'Alto Volta, nazione a cui lui poi cambiò il nome, appunto cancellando quello coloniale, dandole il nome di Burkina Faso. Che, se non ricordo male, significa nazione degli uomini fieri. Wikipedia dice degli uomini integri. Ah, ok, io mi ricordavo fieri, ma insomma. Poi bisognerebbe vedere se l'hanno tradotto come gli uomini o voleva dire magari gli esseri umani in generale. Penso di sì, eh. Pure perché Sankara ha fatto tutta quanta una serie di operazioni per in qualche modo migliorare anche la condizione delle donne in quello che era l'Alto Volta, che insomma parliamo degli anni 70, la situazione era disastrosa, uno dei paesi più poveri dell'Africa. Infatti, insomma, il suo governo aveva incluso un alto numero di donne e comunque aveva fatto delle politiche contro la poligamia e l'infibulazione, aveva promosso la contraccezione, il suo è stato il primo governo africano a dichiarare che l'AIDS era la più grande minaccia per l'Africa, quindi comunque ha fatto delle politiche sensibili alla differenza sessuale di genere. Soprattutto, insomma, il suo sia un personaggio carismatico proprio perché aveva una consapevolezza molto profonda di come, per liberarsi dalle catene della schiavitù e del colonialismo, bisogna liberare prima di tutto la propria mente. Infatti, insomma, una frase celebre che ha detto è che per l'imperialismo è più importante dominarci culturalmente che militarmente. Infatti pure la frase letta prima sul significato del debito anche economico è una visione molto lucida e chiara. E però appunto oltre alla dominazione economica e militare, quella che è più efficace, più flessibile e meno costosa, secondo Sankara, era la dominazione culturale. Diciamo, tra le cose che mi ricordo io, insomma, nel mio immaginario, per cui anche c'ha senso, cioè ci sta il CE africano, perché comunque a un certo punto, quando è diventato capo di Stato, mo non vorrei dire un'esattezza, ma andò all'ONU e chiedendo di fare una mozione per l'abolizione dello Stato di Israele e del Sudafrica, in cui ancora c'era l'apartheid e Nelson Mandela era in carcere, l'eliminazione dell'ONU tra i paesi, cioè di questi due paesi tra i paesi riconosciuti dall'ONU, che insomma non è passata la mozione, ovviamente. No, però insomma bello che l'abbia fatto. Ma sì, dai, ci sta, un sognatore. Comunque anche forti le sue critiche alle multinazionali o comunque alle grosse industrie, anche del settore farmaceutico, rispetto alla gestione dei vaccini, le cure per l'AIDS, le no? cure che per l'AIDS. Costano delle cifre spropositate. Ovviamente fu ammazzato. Sì, lo dicevamo, proprio il 15 ottobre del 1987. E rimaniamo comunque in questa atmosfera anni 70. Loro sono i Sounds of Blacks. E la canzone porta il loro nome. Sounds of black, yeah. che poi ricordiamo che in quell'anno del 1400, quasi 1500, diciamo, si dava forse inizio no, ma un nuovo step alla storia dell'impero attraverso appunto lo sbarco di quel signore. Che poi tra l'altro Colombo, uno dei significati di Colombo è proprio messaggero, quindi Cristoforo Colombo, insomma, ci sono partiti messaggero proprio de morte, ci sono partiti proprio con l'intenzione, cioè, di genocidio, di sterminio. Di sterminio, infatti si rivendica la giornata dell'indipendenza indigena, ma insomma poi da là è nata pure tutta la tratta degli schiavi, diciamo, di questi ultimi 500 anni. Insomma, la tratta degli schiavi c'è sempre stata, e come leggevamo il discorso sul debito, in qualche modo continua in forme diverse a manifestarsi. Comunque, insomma, questa giornata è stata sicuramente una giornata tragica, però io c'ho comunque una canzoncina che invece è tutta è tutta, come dire, facile così sentire, da muoversi. Lui è Curtis Mayfield e questa è la sua Ghetto Child. Diciamo, questa tragedia della questo genocidio, anche comunque, che avveniva al di qua, insomma, dall'Africa, il ratto delle persone, insomma, la tratta degli schiavi, la sì, tratta degli schiavi, il ratto delle persone nella giungla, nella savana, persone libere, fiere, comunque in qualche modo, che venivano trasportate in catene dall'altra parte dell'Atlantico in condizioni disumane, perché le barche delle schiavi, non so se ci avete presente, girano delle immagini, sono state utilizzate su internet, trovate tante, della disposizione degli schiavi all'interno delle navi, dei corpi, direi, cioè una cosa agghiacciante, e ne morivano, ma tipo il 70% di delle navi che arrivavano, perché poi parliamo anche, insomma, di situazioni, non voglio dire arrangiate, però si tratta di attraversare un oceano, quindi molte di queste navi sono comunque affondate, proprio mai arrivate, partite e mai arrivate. Parliamo di centinaia di migliaia di persone che sono state appunto rubate alla loro terra, come diceva Bob Marley. Ecco, però diciamo che dopo 500 anni adesso nessuno più può far finta di non sapere, di non vedere, a parte qualche negazionista, no? Sappiamo tutti che ci sono stati 400 anni di schiavitù e un genocidio di tutta la gente che appunto partiva dall'Africa per l'America. E un altro genocidio delle popolazioni indigene che già abitavano, stavano lì, quella terra. Ecco, invece, allora, a furia di parlare dell'Atlantico Nero, come lo chiamano appunto gli studiosi che hanno fatto ricerca sulla la storia della tratta degli schiavi, ecco, quello è l'Atlantico Nero. A me in questi giorni, insomma, io non riesco a fare a meno di non dire due parole sul nostro mare nero, il Mediterraneo Nero. che insomma in questi giorni, dopo quello che è successo a Lampedusa e gli ultimi sbarchi, una cosa che mi fa veramente accapponare la pelle è questa notizia degli ultimi giorni della operazione Mare Nostrum che il governo italiano ha deciso per gestire la cosiddetta emergenza immigrazione. Mi viene da di Mare Mostrum. Ecco, sì, forse sarebbe più appropriato invece di utilizzare un'espressione che insomma risale all'impero romano proprio per affermare il nostro potere su questo mare. E poi comunque contiene anche un concetto di comunione tra popoli che stanno su rive diverse, perché poi alla fine gira che ti rigira. Cioè, tutti siamo i paesi, sempre umani. Ma siamo sempre umani, ma casomai rispetto, no, mi viene da dire, a paesi più nordici dell'Europa. Insomma, noi abbiamo presente che i greci, ma come i tunisini o i marocchini, hanno usanze molto simili alle nostre, a quelle degli spagnoli. Insomma, diciamo che ci sta abbastanza una comunione di cibi, anche di clima. Te dite, lo sai che quando gli italiani andavano in America a fine 800, inizio 900, gli americani pensavano che gli italiani non fossero proprio bianchi. Sì, sì. Ecco, però diciamo, quanti altri secoli di morti in fondo al mare ci vorranno per capire che non si possono gestire così le cose? Scusa, sì, sì, vai, vai. Ma sta storia dai droni? No, appunto, questo volevo dire. Cioè, tutte le persone che attraversano il Mediterraneo lo fanno per venire in Europa, per salvarsi tra l'altro da paesi in guerra o dove si muovere di fame, e in gran parte sono paesi dove l'Italia ha qualche responsabilità per le condizioni di vita della gente, visto che molti arrivano dalle ex colonie italiane. Tantissimi gli eritrei morti in questi ultimi naufragi. E insomma, la cosa che mi colpisce di più è che insomma è cambiato il governo. L'altra settimana, ti ricordi, parlavamo facendo un po' un mix con Silenzio Assordante del fatto che non c'è più il ministro leghista Maroni al Ministero dell'Interno. Abbiamo questo governo che, vabbè, cioè non si può dire né che è di destra né che è di sinistra, però sappiamo che è. Insomma, diciamo, siccome non c'è il ministro leghista, non ci sono più tutte quelle menate sui clandestini che fanno l'invasione di massa, la minaccia, sparamoglie dalle barche. Adesso c'è un nuovo illuminato, vero, no? Sì, sì, adesso bisogna parlare bene, non sono più clandestini, sono profughi, sono vittime da salvare. Ok, niente più linguaggio violento, ma anzi un linguaggio direi addirittura pietistico. Però praticamente le politiche sono sempre le stesse. Cioè gli accordi bilaterali con i paesi di provenienza sono gli stessi. Ma soprattutto il trattamento che riserviamo alle persone che arrivano è lo stesso. Tant'è che si continua a finanziare Frontex invece di spendere soldi per le politiche di accoglienza, invece di garantire il diritto d'asilo. Quello che noi facciamo è mandare le navi militari nel mare Mediterraneo e mandarci addirittura i droni. Questi droni dovrebbero pattugliare le nostre coste e insomma avvistare le navi prima che arrivino a Lampedusa. Mo non si è capito bene, ma quando le avvistano poi che gli fanno? No, perché i droni uno pensa a quelli utilizzati in Afghanistan che buttavano bombe quasi atomiche appena individuavano il terrorista di turno in motocicletta. Cioè, mi viene da pensare, i droni italiani, ma che saranno? Dei modellini, staranno là col telecomando sulla riva. I droni devono essere intelligenti. Cioè, sembra un film di fantascienza, ma in realtà, insomma, questo è il modo in cui noi pensiamo di salvare le persone. So is all alone. Kinda sad, kinda mad. Insomma, quello che mi veniva da chiedere in tutta questo sfogo, che scusate ma insomma non resistevo proprio, è cioè questo Mediterraneo nero, insomma quante centinaia di anni ci vorranno per capire che c'è un genocidio in corso? Anche noi abbiamo bisogno di 521 anni di resistenza indigena? Let me be. Bene, dopo questo Ghetto Child, Respect Yourself. Bene, sono le 5.05 qui a Via dei Volsci, San Lorenzo, Roma. Perciò Attica Blues sta per terminare. Ma ci abbiamo tempo per un'ultima traccia. E dai, sì, facci sentire un'ultima traccia. Va bene, la traccia in questione si chiama Coffin for the Head of State. Il personaggio che la canta è un personaggio che a me personalmente mi ha segnato, Mancol Fela Kuti, e vi avverto che dura solo 22 minuti e 43 secondi. Thank you. call. Fela aniculapo cuti. The Black President. Eh sì, perché in questo mese di ottobre sono numerose le ricorrenze, tra cui sempre il 15 ottobre, quindi la data in cui nel 1987 fu ucciso Sankara. Qualche anno indietro, precisamente nel 1938, nasceva Fela Kuti. In Nigeria. Diciamo che l'occasione e lo spunto di questa ricorrenza per impegnarci in una monografia, in una delle monografie, diciamo sempre che facciamo e chissà se poi mai faremo, ma sicuramente insomma quella di Fela Kuti va fatta. Uno di quei personaggi poliedrici è venuto a studiare, diciamo, in Europa da giovane, si è anche sposato e ha avuto vari figli, tra cui Femi Kuti, che è diventato un musicista anch'esso. Ma diciamo che è la parte forte della storia di Fela Kuti è quando torna in Nigeria, ormai già abbastanza conosciuto, comunque apre una comunità, una vera e propria comunità la Kalakuta. Insomma, già come sono un po' onomatopeicamente ricorda Calcutta, la città dell'India, ed era un po' quella l'intenzione di questo nome. Ovviamente immaginatevi nella Nigeria degli anni 70 come poteva essere vista la comunità di Fela Kuti anche dal governo nigeriano. Cioè, poi la Nigeria comunque tra i paesi africani è uno di quei paesi tosti, veramente tosti. No, è vero Sonia, nel senso che se parli anche con delle persone del Centrafrica o in generale dell'Africa ti dicono, beh guarda, la Nigeria è il paese più tosto, parliamo di un paese bellissimo, ovviamente pieno di contraddizioni e pieno di difficoltà e estremi da una parte e dall'altra. Sì, tipo dove l'ENI va a sfruttare le risorse, il petrolio, no? Un paese molto grande, dalle mille risorse. Diciamo che l'aggettivo nigeriano, nigeriana, è comunque associato anche a vari tipi di prodotti locali. Un paese ricchissimo di materie prime, ovviamente strasfruttate, e quindi di volta in volta in mano ai regimi dell'una o dell'altra parte. E nel 1975 in questa comunità Fela Kuti aveva anche fatto degli studi di registrazione, ovviamente faceva grossi show, si muovevano 70-80 persone, insomma erano dei mega show con un sacco, un corpo di ballo enorme. Nel 75 esce Zombie, che è un album nel quale, per capirci, Fela Kuti paragona la polizia e l'esercito nigeriano a dei cadaveri senza volontà addestrati a sparare a comando. Insomma, diciamo che questo lavoro naturalmente ebbe un enorme successo in Nigeria tra la popolazione. Ovviamente non fu visto proprio di buon occhio, diciamo, dal governo e dalle autorità incaricate di gestire l'ordine, tra virgolette, in Nigeria. Fa fatto sta che non passò molto dall'uscita di Zombie che il governo appunto del 1975 attaccò questa comune con più di migliaio di soldati tra esercito e polizia, fecero il panico, incendiarono gli studi, distrussero tutte le strutture, era un posto abbastanza grande dove gravitavano varie persone, furono decine e decine i morti, tra cui la madre di Fela Kuti. Ed è proprio di questo che parla questa Coffin for Head of State che stiamo ascoltando. Forse per questo anche Fela Kuti ha avuto bisogno di 22 minuti, appunto, per introdurci anche emotivamente a quello che successe. Lo stesso Fela Kuti fu salvato in qualche modo, perché lo stavano pestando a morte, praticamente lo stavano ammazzando, fu salvato da una parte di questa comunità che riuscì a sottrarlo, diciamo, a questo pestaggio, in qualche modo a salvargli la vita. Poi vabbè, qualche anno dopo tutto questo, nel 1978, diciamo, uno dei gesti eclatanti, uno dei motivi anche per cui è ricordato Fela Kuti dalle mille mogli, appunto, perché nel 1978 sposò 28 ragazze, ma diciamo fu anche un'operazione in qualche modo di riapprovazione della comunità. Infatti legalmente si divorziarono subito dopo, però fecero questo gesto perché comunque loro rivendicavano questo loro concetto di comunità. Tra l'altro Fela Kuti infatti è spesso ricordato come l'uomo dalle mille mogli, quando invece insomma lui fu sposato in Inghilterra e la moglie lo seguì in Nigeria quando lo tornò coi figli. Io vorrei sapere un po' che ne pensavano tutte queste mogli, a dire la verità. Sì, poi in realtà erano, cioè, insomma, non siamo qua a dirvi tutti i nomi, comunque fondamentalmente erano persone del suo show. Erano le coriste, le ballerine, come dicevo prima, erano show molto numerosi, con tantissime persone, tantissimi percussionisti, insomma si muovevano più di 50 persone per fare gli show, soprattutto in Africa. Perché? Ma si è sposato anche tipo gli attrezzisti del palco o solo le questo coriste? Questo non si sa comunque. Fu anche attivista politico, provò a fondare un partito, ovviamente fu ampiamente boicottato dalle istituzioni e dai vari altri partiti che esistevano, il Nigerian Movement of the People. Diciamo sono infiniti gli album che sono usciti di Fela Kuti. Infiniti nel senso che i pezzi durano tutti più di 20 minuti? Abbastanza, uno di questi personaggi era John Coltrane, nel quale facile, ti compri un CD, ci sono 5 pezzi, il CD comunque dura 2 ore. E non è mai noioso. Diciamo verso la fine degli anni 90 smette di pubblicare i CD, infatti inizia a girare la voce che si è ammalato, comunque sono innumerevoli i suoi concerti, ormai abbastanza famoso in giro, insomma, per l'Europa, in America, questi insomma mega spettacoli appunto hanno continuato a muoversi in tantissimi, fin quando appunto non si è saputo che era morto, era ammalato di AIDS nel 1997 mi pare muore. Insomma vorrei ricordare CD tipo No Agreement, Original Superhead, Music of Many Color, più uno doppio che non mi ricordo come si chiama perché ce l'ha il Manseco, grande Seco, ovunque tu sia, bless. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, Jesus Christ our Lord. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. In Spiritus Christus Master, Regnus Master, Christus Master. Amen. Amen. Amen. Allah Akbar, Hamadu Salam Aleikum. Amen. Amen. Amen. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The grace of Almighty Lord. Amen. Amen. So amen. Waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry, cry, cry. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I see ya waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. And they cry, cry, cry. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I see ya waka waka waka waka waka waka waka. I walk a many village anywhere in Africa. I walk a many village anywhere in Africa. Pastor's house, nine day fine pass. My people, them, they stay for God's surroundings. Pastor's dress, nine day clean pass. Heart for my people, for them to buy soap. Pastor, na him them give respect pass. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things. To Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. In spirit to Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master. Amen. Allah Akbar, Muhammadu Salam Aleikum. Amen. Amen. So waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go business places. Waka waka waka. I see, see, see. Waka waka waka. All the bad, bad, bad things. Waka waka waka. Then they do, do, do. Waka waka waka. Call corruption. Waka waka waka. Then they call nepotism. Waka waka waka. Inside the promotions. Waka waka waka. Inside all business. Waka waka waka. I see a waka waka waka. Waka waka waka. I see, see, see. Waka waka waka. See a waka waka waka waka waka waka waka. www.fela.net. Send we are in Africa. I work a many business and we are in Africa. North and South, them get them policies. One Christian and the other one Muslim. Anywhere the Muslims, them daring. Now Senior Halaji, Mahim, the director. Them daring. Now the best friend to Bishop, now him be the director. It is a known fact that for many thousand years, we Africans, we had our own traditions. These money making organizations, them come put we Africans in total confusion. Through Jesus Christ our Lord. Amen. this of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. In spirito Christus, Master Jesus, Master Jesus, Master Jesus, Master Jesus. Amen. Amen. Allah Akubara Muhammadu Salam Alaikum. Amen. Amen. So waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go government places. Waka waka waka. I see, see, see. Waka waka waka. All the bad, bad, bad things. Waka waka waka. Then they do, do, do. Waka waka waka. Look who a passenger. Before anything at all, he go to shout. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, Almighty Lord. Oh Lord, oh God. And then they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, to Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. I say, look who you're a doer. I say, look who you're a doer. Before anything at all, he would shout. Abba Hala, Abba Hala, Abba Hala, Abba Hala, Abba Hala. And them they do yes, yes. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things through Muhammad our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Allah. Amen. Amen. So waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go government places. Waka waka waka. I see, see, see. Waka waka waka. All the bad, bad, bad things. Waka waka waka. Then they do, do, do. Waka waka waka. They steal all the money. Waka waka waka. They kill many students. Waka waka waka. They burn many houses. Waka waka waka. They burn my house too. Waka waka waka. They kill my mama. Waka waka waka. So I carry the coffin. Waka waka waka. A waka waka waka. Waka waka waka. Movement of the people. Waka waka waka. Them waka waka waka. Waka waka waka. Young African pioneers. Waka waka waka. Them waka waka waka. Waka waka waka. Go Wabalende. Waka waka waka. Go down them barracks. Waka waka waka. We reach them gate you. Waka waka waka. We put the coffin down. Waka waka waka. Ambassador Jordi there. Waka waka waka. With a big fat stomach. Waka waka waka. Yara do what I did there. Waka waka waka. The neck like ostrich. Waka waka waka. We put the coffin down. Waka waka waka. There no one to take him. Oh, them take him. There no one to take him. Oh, them take him. Who go one take a coffin. Oh, them take him. Them must take him. Oh, them take him. Now the bad, bad, bad things. Oh, them take him. We dare don't do. Oh, them take him. There no one to take him. Oh, them take him. Obasanjo grab him. Oh, them take him. Yara do a carry a boss, yes, there no one to come. Boss, them take him. Obasanjo carry a boss, them take him. Yara do a to him. Boss, them take him. There no one to come. Boss, them take him. There no one to come. Boss, them take him. The day for them office. Boss, them take him. The day they are now, now. Boss, them take him. The day they are now, now. Boss, them take him. The day they are now, now. Boss, them take him. The day they are now, now. Boss, them take him. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no E allora anche la capacità ipnotica in qualche modo della musica di Fela Kuti, che caratterizza anzi proprio la sua musica. Trouble Sleep, Young Wake Up. Un brano del 1975. Come dicevo di Steel Pulse, come degli Aswad, se vi capita andatevi a vedere qualche video dei concerti di Fela Kuti, perché sono veramente hype. Diciamo che anche il fatto che Fela Kuti cantasse in inglese rese possibile anche la grossa diffusione dei testi delle sue canzoni, che comunque infervorarono un po' tutto il continente africano, testi politicamente definiti roventi. Da da da da. diciamo che ha avuto anche una certa risonanza il fatto che cambiò il suo secondo nome da Ransome ad Anikulapo, che vuol dire colui che dispone della propria morte. Diciamo che con Fela Kuti venne coniato il nome di Afrobeat, un genere musicale proprio. Ci sentiamo giovedì prossimo, ma rimanete sintonizzati. Non lo dico come si chiama perché sbaglio, Marta, lo so che sbaglio. Meglio tardi che mai, arriva la Eschina del Soul. No, ma invece è vecchio ormai, dai. Sta piano. dai, Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Toda música tropical bajo un